Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Nuovamente in diretta dopo il GR di Radio Popolare per questo giovedì 12 settembre, lo spazio Last Minute è per un imminente inizio che arriverà fino a dicembre 2024. Laboratorio di San Filippo Neri, incontri, spettacoli, cinema, musica e festival. Un aspetto eterogeneo dove fili conduttori sono la divulgazione culturale, l'incontro, il dibattito, oltretutto di qualità molto intensa. Un aspetto che porta allo spazio laboratorio di San Filippo Neri di grande interesse e interessante per quanto riguarda la nostra città e non solo. Con l'organizzazione di Misma Onda, da cui abbiamo portato conversazione in frequenza tra poco con Mariangela Pitturru, per questa stagione 2024, come ho detto, da settembre a dicembre, avrà un'attenzione e particolarità che ha sottolineato a proposito di scuola la stessa direttrice artistica e organizzatrice di Misma Onda. Quindi iniziamo sentendo le sue parole in questo primo segmento di intervista. Sì, lo spazio, come dici tu, ti ringrazio, interessante San Filippo Neri da diversi anni, ormai da 8 sotto la nostra gestione, spazio meraviglioso della fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si iscrive ormai appunto da tempo nell'ambito delle programmazioni vere e proprie dei teatri, seppure con una differenza, perché l'ingresso è quasi sempre gratuito, a parte i festival che per loro natura invece apportano un biglietto d'ingresso. I temi che affrontiamo sono quelli che rincorrono un po' quella che è la quotidianità, quello che è il comune sentire, quelli che sono gli argomenti di cui si sente la necessità di dibattere. Quest'anno devo dire che al centro abbiamo posto il tema della scuola, che è un tema caldo naturalmente, ma il là ce l'ha dato l'occasione di questa mostra Ezio Raimondi, la biblioteca infinita allestita a Palazzo Magnani, tenuta naturalmente dalla Fondazione del Monte e curata da Marco Bazzocchi, dal professor Marco Bazzocchi, che poi al San Filippo Neri ha organizzato una serie di incontri con scrittori e con docenti per indagare appunto quello che non siamo abituati a sentire relativamente alla scuola, per indagarne un po' i misteri con chi la scuola la vive. Noi ci siamo messi sulla scia di questa suggestione e abbiamo chiamato 3 prof, li chiamo così perché sono 3 prof che piacciono molto ai giovani, sono quelli pop, e parlo di Alessandro D'Avenia, di Massimo Saudino Barba Sofia e di Enrico Galeano, in modo tale da avere anche un ulteriore contributo appunto a questo tema. E abbiamo chiamato anche Niccolò Fettarappa, che è un attore che fa uno spettacolo anche lui incentrato sul rapporto professore e studente. Thank you. Per ECM Record loro sono gli Oregon. Che formazione! Ralph Towner alla chitarra, stiamo ascoltando Paul McCandless, oboista, con queste sonorità tipiche, ma anche al sax soprano il bassista e controbassista Glenn Moore, dal tocco e dal timing precisi al contempo raffinato, alle tabla e alle percussioni Trilo Gurtu. Stiamo ascoltando questo disco e il brano che si intitola semplicemente Innocent è dal disco Ecotopia per ECM, gli Oregon. Rassegna in musica con intersezione di festival, il Bologna Festival, ci sarà l'orchestra senza spine in serate di incontro tra musica e narrazione, la letteratura che darà per così dire un'ulteriore emozione a un programma ricchissimo, musica insieme, e abbiamo la partecipazione di nomi importanti e allo stesso tempo dei contenuti. Dal motivo colto, contemporaneo, di grande attualità, con la scuola protagonista, come ha sottolineato Mariangela Pitturru, di Misma Onda, lo spazio laboratorio di San Filippo Neri per la Fondazione Dal Monte di Bologna e Ravenna, in un programma per 8 anni di collaborazione tra laboratorio di San Filippo Neri e Misma Onda, che da settembre arriverà fino a dicembre. Ovviamente 2024. Consultate il programma, perché basta veramente aprirlo a caso e avrete motivo di esserne quantomeno incuriositi. Doveva iniziare imminentemente. Il motivo di dialogo con Mariangela Pitturru l'ho tenuto nella giornata di conferenza stampa di ieri e c'è stato un piccolissimo imprevisto, ma non si tarda più di tanto. Intanto sentiamo altri temi per questa kermesse che, come ho già detto, con laboratorio di San Filippo Neri sarà da settembre a dicembre 2024. Dopodiché i nostri temi soliti, approfondimenti relativamente a quello che è il pensiero della donna attorno al festival eccentriche, gli omaggi, un omaggio importante oltre a quello ad Ezio Raimondo, quello a Guglielmo Marconi, in collaborazione con i dipartimenti di medicina e di ingegneria dell'Università di Bologna. Abbiamo prodotto un'intervista impossibile tra Marconi e un'intervistatrice contemporanea, per andare a sondare quelli che sono i percorsi dalle sue invenzioni alle attuali realizzazioni, appunto, in campo medico ed ingegneristico, e poi ancora presentazioni dei libri, e finiamo verso dicembre con un site specific per cui il San Filippo Neri verrà proprio completamente modificato, ai pochi spettatori alla volta che verranno ammessi, perché si tratta di una 30 spettatori per 8 repliche nel corso di 3 giorni, verrà offerta una cena in modo tale da provare ad avvicinarsi in modo conviviale e a stringere quei rapporti che adesso, con tutto quello che sta succedendo, invece rischiano veramente di slabrarsi in modo nefasto, più di quanto stiamo assistendo. Ufficialmente si parte? Si sarebbe dovuti partire domani sera con la presentazione del libro di Domenico Starnone, presentato da Marcello Fois, che proprio ora ci ha annunciato drammaticamente di essere stato colpito dal colpo della strega, appunto, e quindi lo dovremo ricalendarizzare, per cui non sarà più domani, ma non passa molto, perché il 17 avremo qui con noi Rossella Postorino, in collaborazione con Romano Montroni, che presenterà il suo ultimo libro. Grazie per la disponibilità e buon festival. Grazie, buona rassegna. In bocca al lupo a Marcello Fois, colpito da questo disagio alla schiena. Doveva iniziare, tenuta ieri la conferenza stampa, quindi sarebbe stato questa sera l'inizio ufficiale, è stato rimandato. Ovviamente il programma lo potete trovare un po' ovunque per il laboratorio di San Filippo Neri. E si parte ufficialmente il 17 settembre. In questo last minute di oggi siamo arrivati a conclusione. Grazie a Mariangela Pitturro di Misma Onda. Tra pochissimo pubblicità e poi direttamente con un inizio molto atipico per la rubrica In Mostra. A tra poco, buon ascolto!